Allora, riprendiamo, fratelli e sorelle carissimi, dalle 10 piaghe. La volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo lasciato Mosè davanti al roveto ardente, quindi con tutta quanta la sua vocazione, con tutto il lungo colloquio fatto con il Signore, le obiezioni, mandaronne, eccetera eccetera. E quindi oggi vedremo Mosè in azione, quindi con il racconto delle 10 piaghe, che vi invito a leggerlo perché sarebbe troppo lunga la lettura. E queste 10 piaghe chiaramente hanno un valore simbolico. Il numero 10 è un numero molto importante nella Sacra Scrittura, vedremo che 10 saranno anche i comandamenti che il Signore dà. E sapete che c'è stato da parte dei padri della Chiesa, da sempre, insomma, in tutta la tradizione cattolica, una lettura allegorica della situazione di Israele, della schiavitù in Egitto, della figura di Mosè, eccetera. Quindi Faraone è simbolo del diavolo, d'accordo. L'Egitto, tenete presente che in ebraico Egitto si dice Mitzrayim. Mitzrayim letteralmente significa angoscia, quindi non ha certamente un significato buono. L'Egitto è la condizione fondamentalmente, allegoricamente, dell'uomo lontano da Dio. Quando l'uomo è soggetto alla schiavitù del Faraone, Gesù nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, avrebbe ripreso questo tema. Tenete presente che l'importanza dello studio dell'Antico Testamento, ve l'ho già detto altre volte, è fondamentale per la comprensione del Nuovo. Per esempio, tutto il Vangelo di Giovanni che abbiamo fatto l'anno scorso, Gesù lo fa tenendo presente in continuazione soprattutto la storia di Abramo, l'Esodo e la storia di Mosè. Tutti quanti i discorsi che fa hanno sempre questo come sottofondo. Vi ricordate quando dice: chi commette il peccato è schiavo del peccato? E loro gli rispondono: ma noi non siamo schiavi di nessuno, noi siamo figli di Abramo. E lui gli risponde: no, voi siete schiavi del diavolo, perché compite le opere loro e siete lontani da me, non volete credere alle mie parole, eccetera eccetera. C'è sullo sfondo questo. Vedremo per esempio oggi che le tre tentazioni che Gesù subisce nel deserto, qualcuno di voi lo sa perché avete sentito la predica che faccio in Quaresima, hanno sullo sfondo le tre tentazioni del popolo di Israele durante l'Esodo, quindi nel cammino nel deserto, lo vedremo tutti e tre, quindi il pane, quindi la manna, quindi le quaglie, quindi massa e meriba e quindi vitello d'oro. Sono esattamente le stesse identiche cose che Gesù subisce, guarda caso, nello stesso posto dove è stato Israele. Israele è stato nel deserto e Israele è stato nel deserto per 40 anni e Gesù va nel deserto per 40 giorni, quindi sono tutte cose rigorosamente pensate, perché Dio non fa assolutamente nulla al caso. Siamo noi che non siamo capaci di vedere le sue opere e discernere i suoi segni, no? Quindi le 10 piaghe sono un crescendo, perché Mosè riceve la missione, trova il coraggio, va dal faraone e gli dice: guarda che il nostro Dio ci è apparso, ci devi mandare via. Dice: che cosa? Ecco, anziché mandarli via, inasprisce le misure repressive contro Israele. Allora Dio piano piano comincia a mandare un crescendo di piaghe. Anche questo particolare, dobbiamo fare attenzione, ha un significato simbolico, perché quando una persona sta in procinto di cambiare vita, di dare una svolta alla propria esistenza, era stata schiava del faraone, quindi del demonio, non è mica tanto facile sottrarsi alle sue grinfie, perché si devono incontrare tutta una serie di difficoltà. Io tante volte ho avuto modo di dire a tante anime, specialmente alle anime convertite, dico: guarda, stai attento, stai attenta, perché tu ti sei convertita, tu ti pensi che stai tranquilla, ma il diavolo tornerà alla carica. Il diavolo torna alla carica in due modi: o tarpando le ali, quindi una persona ha deciso di partire come Israele e ti blocca, ti stoppa, ti impedisce, e ci vogliono una serie di atti di forza per uscire, oppure dopo che sei partito ti fa tornare indietro. Quindi tenete sempre presente che ciò che è successo, poi lo vedremo forse stasera in Deuteronomio 8, a Israele ha un valore, si dice teologicamente, tipologico, cioè nella storia di Israele c'è la storia nostra, ma realmente è di ogni uomo, e quindi in essa dobbiamo specchiarci. San Paolo, nella lettera agli Ebrei, Voi sapete che io penso che la scritta San Paolo, anche se gli esegeti dicono di no, dice, riferendosi a tutto quello che è accaduto a Israele nell'Egitto e nel deserto, dice: tutte queste cose accaddero, non nella lettera agli ebrei, sbagliato, nella prima lettera ai Corinzi, accaddero a loro come esempio perché attraverso quelle noi fossimo ammaestrati. Quindi quali sono queste 10 piaghe? Allora, la prima, l'acqua che diviene sangue. Mosè fa un miracolo, butta il bastone nel Nilo e le acque del Nilo, non soltanto le acque del Nilo, ma tutte le acque di tutti gli egiziani, comprese le acque dentro casa, le acque del rubinetto, diventano sangue. State attenti, perché le prime piaghe, se andate a leggere i resti, li soprassediamo per ragioni di tempo, perché poi ne leggeremo qualche altro questa sera, vedrete che i primi segni, il faraone chiama i suoi maghi e i maghi li rifanno. Questo ci fa capire, state attenti, come il diavolo non fa i miracoli, d'accordo, però è capace di fare delle cose che sembrano sensazionali. Vi faccio un esempio: è morto da poco tempo uno dei più grandi servi di Satana che il mondo abbia conosciuto. Sapete chi è? Sai Baba. Non l'avete mai visto in televisione, quel mezzo matto vestito d'arancione con tutti i capelli peggio di Simoncelli, cioè i capelli ancora più grossi, c'è un coso che sembrava Napo Orso Capo. Quello c'aveva migliaia di seguaci, perché dinanzi a lui c'aveva la polverina, lui faceva così con la mano e tirava fuori la polverina magica, guariva da alcune malattie, faceva sparire alcune cose. Bisogna stare molto molto attenti. Allora, una guarigione, il diavolo può, sapete che può guarire alcune malattie? Sapevate? Dice, ma col diavolo fa pure il medico. Non sono però guarigioni miracolose, perché il diavolo può guarire alcune malattie perché il diavolo ne sa più dei medici. Quindi se una malattia è guaribile anche con, come dire, con ricorsi a cognizioni scientifiche superiori a quelle attuali, lui le sa. L'unica cosa che non può fare è una guarigione miracolosa. Una guarigione miracolosa non è una guarigione che dipende dal fatto che è stata trovata una super cura, ma che per le modalità con cui avviene, per le forme e per le circostanze, è assolutamente inspiegabile con la semplice ragione. Per esempio, questo si avviene sempre quando c'è una guarigione istantanea. Un tumore non può guarire da un istante all'altro. D'accordo? Comunque, questo per farvi un attimo capire. La seconda piaga è quella delle rane. L'Egitto viene completamente invaso di rane. La terza è quella delle zanzare, invasione dell'Egitto da parte delle zanzare. Siamo stati piegati un po' pure noi quest'estate, qui con, si vede, siamo stati troppo cattivi. Poi ci stanno i mosconi, poi ci sono la morte del bestiame, cominciano a esserci un'ecatombe totale del bestiame, poi le ulcere, quindi vengono colpiti nel corpo gli egiziani con queste brutte piaghe, poi la grandine a scrosci proprio e in maniera insomma spaventosa, poi le cavallette che si mangiano di tutto e di più, poi le tenebre, buio su tutto l'Egitto, e infine la cosa più grave, la strage dei primogeniti. Dopo la strage dei primogeniti, il faraone dice: sparite dalla circolazione. Sapete che la strage dei primogeniti avviene così, ed è anche l'occasione, questo lo vedremo dopo in Esodo 14, della celebrazione della prima Pasqua ebraica. Cioè, l'ultima piaga è questa qui. Scende l'angelo sterminatore e uccide tutti i primogeniti degli uomini e del bestiame. Dio ordina agli israeliti: dovete immolare un agnello e dovete prendere il sangue di quell'agnello e ungere gli stipiti delle vostre case. Questa è stata la prima Pasqua ebraica. Quando l'angelo passerà, farà secchi tutti i primogeniti, tranne quelli delle case che vedrà unti del sangue dell'agnello. Anche questa è una figura allegorica della Pasqua di Cristo, perché il diavolo non ci fa secchi, non ci porta all'inferno, soltanto se siamo unti del sangue di Cristo, perché altrimenti siamo tutti sterminabili in quanto tali. Battesimo, Eucaristia, penitenza e vita di grazia, insomma. Quando uno fa la comunione prende corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, quindi si è ampiamente unti. Ecco, cambiamo slide. Ecco, passiamo adesso alla Pasqua e all'uscita dall'Egitto, che è Esodo 12 e Esodo 14. E qui penso che sarebbe il caso di dargli un'occhiatina. Leggiamo un attimo il testo. Allora. Si vede bene? Ecco il racconto della Pasqua. È bene un attimo questo, fermarci un attimo l'attenzione. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello per famiglia e un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, eccetera, eccetera. State attenti, il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Leggendo queste cose, cercate di pensare a Gesù morto in croce, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quindi, agnello senza difetto, Gesù senza peccato, maschio, Gesù è maschio. Ed è per questo che i sacerdoti che rappresentano e ripresentano Gesù sacerdote, Gesù è stato sacerdote in massimo grado quando stava morendo in croce, perché il sacerdote è colui che offre il sacrificio a Dio per propiziargli la salvezza del mondo. Gesù sulla croce era altare, vittima, perché il sacrificio era lui, e sacerdote, perché era lui che lo stava offrendo al Padre. Quindi mano a mano che leggiamo tenete sempre presente Gesù crocifisso, così capite le figure nascoste sotto questa figura prototipica, perdonatemi l'espressione, di quella che sarebbe stata l'unica Pasqua, che è appunto quella dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Potrete sceglierlo tra le pecore e tra le capre, lo conserverete fino al 14 di questo mese, allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Gesù è morto all'ora nona. Sapete che dopo l'ora di sesta iniziava nel calendario romano, anche nell'attuale, il sole raggiunge il picco a mezzogiorno, dopodiché inizia la fase calante. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipidi e sull'architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollite nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete fare avanzare fino al mattino, quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore, in quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito della terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Ecco, il nome di Pasqua deriva proprio da questo, perché Pasqua significa letteralmente passaggio. Quindi l'angelo passa, ti vede e passa oltre la tua casa. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come rito perenne. Subito dopo la Pasqua c'è il miracolo del passaggio del Mar Rosso. Perché arriva la Pasqua, il faraone vede tutti i primogeniti morti, dice: andatevene. Israele parte, dopodiché ci ripensa, dice: no, che abbiamo fatto? E cominciano ad inseguire gli israeliti. Allora, a un certo punto cosa succede? Vedete come le situazioni si ripropongono, no? Vi ho accennato la volta scorsa alla situazione di Giacobbe, quando poi c'ha il sogno e quando c'ha la lotta con l'angelo che gli colpisce il femore dell'anca. A un certo punto Giacobbe si trova che da una parte c'ha Esaù che lo vuole ammazzare perché gli ha rubato la primogenitura, dall'altra parte c'ha il suocero Labano che lo vuole ammazzare per tutti gli intrallazzi che ha fatto. Quindi dovunque va sta male. Ecco, Israele si ritrova nella stessa condizione. A un certo punto si ritrova che scappa, esce dall'Egitto, davanti c'è il mare, quindi non può andare oltre, dietro c'è gli egiziani che lo stanno a incontrare. Vedete come queste situazioni si ripropongono in continuazione nella Sacra Scrittura. La stessa cosa succede col sacrificio di Isacco, Abramo, uguale. Abramo viene messo in una condizione che ubbidire vuol dire fare una cosa assurda, non ubbidire vuol dire disobbedire a Dio. Cioè sono tutte quante situazioni limite, borderline. Queste sono catechesi esistenziali molto importanti, perché tutti quanti noi passeremo per queste cose qui se ci mettiamo dietro al Signore, tutti. Cioè ci sarà un momento in cui Dio ti mette in condizioni che tu devi per forza, se vuoi uscire fuori dai guai, fare un atto di fede e di consegna totale di te a Lui. Noi tutti quanti pensiamo di avere la fede, ma non ce l'abbiamo la fede. Ho detto altre volte che la fede oggi non ci sta sotto nessun punto di vista. E se voi leggete Sant'Agostino, il grande Sant'Agostino, quando parla di fede, lui specifica la fede in tre dimensioni. Per dire di avere la fede, queste tre dimensioni devono essere tutte e tre presenti, non ne basta una sola. Oggi ce n'è nessuna, d'accordo, nella quasi totalità delle persone. Allora, c'è quella che lui chiama la fides qui, cioè la fede come conoscenza e adesione ad una serie di verità soprannaturali che non sono inaccessibili alla tua sola ragione, ma che tu le conosci e le accogli soltanto perché Dio te le ha rivelate, nonostante il fatto che i sensi e le esperienze le dicono completamente il contrario. Questa fede oggi non c'è in giro, tant'è vero che io passo i guai perché predicando i contenuti della fede e della morale, che non ci sono, ma che sta di niente di nuovo, cioè, se uno conoscesse non ci sarebbe niente di cui stupirsi, però sembra chissà che o chissà che cosa. C'è stato un libro molto bello, un pochino difficile, non lo so quanti di voi, spero tutti, però è un po' difficilotto, sono in grado di accedervi, che si chiama così, L'eresia dell'informe. L'informe, cioè è un autore tedesco, un intellettuale molto in gamba, cattolico col K, che praticamente spiega come in questi ultimi 40 anni, che è successo, cioè che è tutto quanto confuso, è tutto quanto evanescente. Cosa è vero, cosa è cioè i confini sono tutti quanti hai visto l'informe? C'è una cosa che non ha forma, tu dici, ma che vuol dire essere cristiano, dice a qualcuno? Ma essere cristiano vuol dire che devi voler bene al prossimo, che devi fare un po', devi essere solidale, non devi cioè è tutto quanto non è così. Già se ci fosse questa fede, quindi la fides qui è la fede come conoscenza e adesione ad una serie di contenuti concreti di verità rivelate da Dio che devi fare tue e in base alle quali orienti la tua vita. Non è la stessa cosa credere che Gesù Cristo è Dio oppure no, ma che Gesù Cristo è Dio è vero il Vangelo, quindi il Vangelo bisogna osservarlo. Non è la stessa cosa credere che la Chiesa è una realtà soprannaturale, anche se oggi la vediamo abbastanza malconcia. Non è la stessa cosa credere che nell'ostia consacrata c'è presente Gesù Cristo in persona, oppure che non è una caramella che ti puoi mettere in bocca e masticarla come se fosse un chewing gum. Non è la stessa cosa credere che esiste l'inferno, il paradiso e il purgatorio, oppure vivere come se non esistessero. Non è la stessa cosa credere fermamente che alcune cose sono peccati e altri no, e quindi evitarli perché se li fai ci stanno delle conseguenze, capito? Quindi questa è la prima. La seconda fede, la fides qua, quindi la prima coinvolge fondamentalmente la conoscenza e l'intelletto, la seconda coinvolge la volontà. La fides qua è la sottomissione, cioè della volontà a Dio, motivata semplicemente da una cosa: se Dio dice una cosa, nonostante tutte le apparenze contrarie a quella cosa ci credo, perché se Dio la dice, Dio non si sbaglia, non si può sbagliare, non inganna e non può ingannare. Altra cosa, insomma, quindi la fede come obbedienza. San Paolo approfondisce molto nelle sue lettere questa dimensione. Paolo, apostolo di Cristo, scrive, mi sembra, nella lettera dei Romani, chiamato ad annunziare il Vangelo per ottenere l'obbedienza alla fede di tutte le genti. Per questo che io, se io vi dicessi, la fede ammette dubbi? La fede non ammette dubbi, se è fede. Perché se Dio dice una cosa, quella cosa è quella, non c'è possibilità di dubbio, se è fede. Se c'è il dubbio, non c'è ancora la fede. Doc. C'è un'altra dimensione, che è quella a cui si fa riferimento in questi episodi. Giacobbe, Laban, Esaù, Israele, Mar Rosso e Faraone, Abramo dinanzi a Isacco. Ed è il credere. Sono quegli episodi, vi ricordate quando Gesù nel Vangelo parla della fede che sposta le montagne? Se aveste fede quanto un granellino di senape potreste dire, ecco, allora, è la fede come affidamento totale di sé a Dio, è quella che coinvolge la dimensione esistenziale, è la più difficile, perché è quella che ti permette di affrontare delle situazioni di scacco matto o di sofferenza tranquillo. Ci possono fare gli esempi più grandi. Mi è venuto un tumore? Sia fatta la tua volontà. Se mi è venuto un tumore, non si muove foglie che Dio non voglia, Dio ha permesso che mi venisse, questo è bene per me e per gli altri. Quindi, sia fatta la tua volontà. È morto un bambino di 10 anni? Sia fatta la tua volontà. C'ho un rovescio, qualunque cosa, sia fatta la tua volontà. Mi trovo in questa situazione difficile, bene, Dio ha permesso che mi ci trovassi, non può essere che mi abbandoni in questa situazione, da questo ne verrà qualcosa di bene, Dio provvede. Pensate a Abramo, abbiamo visto la volta scorsa, pensate adesso a Israele, pensate a Giacobbe, pensate alla Madonna sotto la croce, ecco, questa cosa, oppure pensate anche alla Madonna quando dice Fiat. La Madonna quando dice Fiat, c'era tutte e tre queste forme di fede, le ha dovuto fidarsi. Perché se cominciamo a pensare, io dico di sì, ecco, questo è il Messia, quindi vuol dire che io dovrò soffrire enormemente, ce la farò a soffrire tutte quelle cose, perché io sono la madre di questo qua. Io dico di sì, San Giuseppe soffrirà enormemente, questo è un povero disgraziato, mi ritrovo incinta, che gli vado a raccontare? Io dico di sì, tutti quanti penseranno che sono nato con qualche uomo, e sono adultera, e mi lapideranno, come ha scritto Mosè nella legge. Quindi sono tutte quante situazioni estreme, sono tutte quante situazioni limite, però il Padre Eterno ci porterà sicuramente qui dentro. Il grande Davide, in uno dei salmi stupendi, che credo il numero 22, esprime questa stessa fede con queste parole: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Io ricordo le situazioni di sofferenza. Ti si scatena il mondo contro, tutti pensano male di te, tutti parlano male di te, e allora? Allora che problema c'è? In quelle circostanze questa fede dice, Dio sa, il mio giudice è il Signore, c'ho la coscienza a posto, andiamo avanti, tranquilli, non succede niente. Non ci potrebbe essere un discorso anche di attenuante, voglio dire, così dovremmo essere perfetti, ma non siamo, no? Quindi... Il Signore ci porta a questo qua, attraverso le situazioni di vita che ci mettono un pochino sotto scacco e che piano piano dobbiamo imparare ad affrontare santamente. Quindi, la storia, versetto 5. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo e disse: ma che abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? Attacca il cocchio, prende con sé i suoi soldati, 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, attenti a questa espressione, re d'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. State attenti quando leggete l'Esodo a non farvi ingannare da questa espressione, perché sembra che Dio sia la causa del male. Il Signore rese ostinato. Ora, il popolo ebraico, come dire, rende con il suo linguaggio, ora vorrei farvi una lezione di sintassi e di grammatica ebraica, ve la risparmio, d'accordo? Ecco, allora, il principio vero, questo è vero anche oggi, ricordatelo sempre bene, è che il proverbio non si muove foglie che Dio non voglia, è vero, nel senso che Dio è la causa prima di tutte le cose. Per cui non si può dire che dinanzi a un episodio, ve l'ho già detto, Dio non c'entra niente. Non è vero questo qui. Mai. Quando anche fosse un episodio brutto e cattivo, adesso lo vedremo, che Dio non ha voluto con una volontà positiva, lo vedete tante volte queste cose, però guardate che è fondamentale averci le chiare queste cose qui in testa, però Dio l'ha voluto con volontà permissiva, perché non ha impedito che accadesse. Come potrebbe fare? Questo non, e non dobbiamo avere paura di dirlo, anche di fatti ed eventi tragici, per questo vi ho già espresso le mie estreme critiche ad alcune omelie che sono stati fatti da qualcuno in occasione di morti, di funerali eccellenti. Non si possono dire alcune cose, meno che mai quando si ha in testa lo zucchetto viola, meno che mai, perché non sono vere. Cioè, non dobbiamo avere il coraggio di guardare queste cose in faccia, non si possono risolvere tutti quanti perché, però comunque alcune cose devono essere chiare. Allora, Dio è la causa prima di tutte le cose, però con il concorso delle cause seconde, cioè il fatto che Dio potrebbe impedire qualunque cosa, ma non sempre lo fa, non lo rende colpevole del male che c'è nel mondo, perché il male che c'è nel mondo è colpa nostra. Tuttavia, Dio non permette che si faccia più male di quanto nella sua imperscrutabile onniscienza e sapienza lui sa che sia giusto e sia giusto che si faccia. Non so se questo dipende dallo stato di grazia di ognuno. Questo dipende certamente. Allora, se dipendesse, perché se dipendesse dal diavolo, se il diavolo potesse fare quello che vuole, questo risulta da, non soltanto da Padre Pio, ma da tutta l'altra letteratura, potremmo contare fino a 10, dopodiché il pianeta Terra sarebbe sterminato. Se il diavolo con gli amici suoi potesse fare quello che vuole, questo succederebbe. Il problema è che noi siamo realmente liberi, quindi quanto più liberamente l'uomo si orienta verso il male, quanto più il male dispiega il suo potere nel mondo. Ora però questo male, anche se noi non lo vediamo e non lo sappiamo, è bilanciato dal bene. C'è una lotta, c'è, d'accordo? Se voi leggete San Santo Curavo d'Arso oppure San Pio, diceva: se soltanto per un giorno non si celebrassero le messe, nessuna messa nel mondo, il mondo finirebbe subito. Quindi pensiamo anche a tante altre cose, a tanti buoni che ci stanno sulla terra, a tanti santi, a, non lo so, a tante persone che pregano, che fanno i sacrifici, insomma, che trattengono tanti mali che non accadono grazie a queste cose. Oh, allora, Israele, quindi, non so se avete capito, ci sono due forme, diciamo così, secondo il nostro modo di pensare, di volontà di Dio. Ci sono alcune cose che Dio vuole con volontà, diciamo così, positiva, cioè vuole positivamente una cosa. Ci sono altre cose che Dio non le vuole con volontà positiva, cioè se dipendesse da Lui, solo da Lui, non accadrebbero. Ma a causa del concorso e della cattiveria delle creature, permette che siano, d'accordo? Permettendo che siano, ne sa trarre, e questo ce lo dice la fede, sempre un bene più grande, perché anche dalla cattiveria del faraone, come qui traspare, cosa ne trae? Maggiore gloria, manifestazione della sua gloria, distruzione degli egiziani in Israele, quindi manifestazione della sua potenza. Da tutto quanto lo scatenamento dell'odio che è successo per la morte del figlio di Dio, Dio ha tratto la redenzione del mondo. Quindi questi sono i dati che ci dà la fede. È ovvio che questi dati non risolvono tutti i perché, e saremmo matti se noi prendessimo quel Dio, però, come dire, ci danno alcune coordinate corrette per dare un senso alle cose che accadono e per vivere sempre in un orizzonte di fede, senza mai cadere nella disperazione. Vi sto rifacendo un pochino delle cose, discorsi che ho detto in occasione della morte di quel bambino, non da tutti purtroppo correttamente compresi. E quindi quando dice il Signore resostinato il cuore del faraone, vi ripeto, non vi posso fare la lezione di sintassi ebraica. Dobbiamo intendere: il Signore permise che il faraone si ostinasse, quindi nel perseguitare Israele, perché da quell'accanimento ne doveva derivare una gloria più grande per lui e una dimostrazione più grande della sua potenza davanti al suo popolo. Chiusa parentesi. Quindi gli egiziani inseguono e raggiungono Israele mentre essi stavano accampati presso il mare. Allora, e adesso cominciano le prime lamentele, perché gli israeliti mica dicono: siamo messi così, Dio provvederà. No, è forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci ha fatti uscire. Questa è la prima di una serie interminabile che ci ha portati a morire. E che cosa ci ha fatto portandoci fuori? Non ti dicevamo in Egitto lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto? Fate le applicazioni tutti quanti per la vostra vita, perché quando noi cominciamo a stare un pochino appresso al Signore, dopo arrivano un po' di guai. Dice: ah, ma stavo tanto bene prima, non era meglio che rimanevo così come stavo più tranquillo, non c'erano tutte quante queste cose, eccetera eccetera, invece adesso tocca sta fare tutte queste battaglie, tutte queste rotte, ecco, eccetera. Ecco, Mosè, così come il vostro padre spirituale, dice: ma state tranquilli, non abbiate paura, state tranquilli, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi, perché gli egiziani che oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Ecco, dopodiché il Signore dice a Mosè, ordina agli israeliti di riprendere il cammino, alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrano sul mare all'asciutto. D'accordo, tutti quanti voi sapete la storia, il mare si apre, gli israeliti passano, versetto 22, gli israeliti entrarono nel mare all'asciutto, gli egiziani li inseguirono, gli vanno dietro, e che succede? Che mentre stavano loro dentro il solco aperto nel mare, l'angelo ordina a Mosè a ristendi le mani, le acque si chiudono e quindi è successa una ecatombe. Quindi questa è la storia fondamentale, insomma, che Israele avrebbe celebrato ogni anno celebrando la Pasqua ebraica, quindi il passaggio dalla schiavitù alla libertà. Torniamo alle nostre slide, ecco, quindi questa è per quanto riconcerne la Pasqua e l'uscita dall'Egitto. Ecco, ora si apre un capitolo, ecco, che succede? Israele comincia un percorso. Allora, durante la preparazione, mi dovete perdonare, casomai lo farò per la prossima volta, non ho avuto tantissimo tempo e non sono riuscito a ritrovare un versetto che la prossima volta vi dirò qual è, molto interessante. Il versetto dice così, proprio all'inizio dell'Esodo, dice: quando Israele uscì dall'Egitto, il Signore, non so se avete presente un pochino di geografia, come ha fatto l'Egitto e come la terra di Canaan, no? Allora, se gli israeliti si fossero diretti verso la costa, quindi verso la Fenicia, avrebbero fatto subito arrivare in Israele. Non ci avrebbero certamente messi 40 anni, anziché passare per tutto il deserto e farsi tutto quanto quel giro. Allora dice, il Signore non li fece passare, lui non li fece passare, per la via più breve. E sapete perché? Perché se avesse fatto questo, dopo, arrivati nella terra promessa, avrebbero detto: siamo stati noi ad uscire da lì, non è stato il Signore. E allora gli ha fatto fare il percorso lungo, la via lunga, d'accordo, in modo tale che si mettessero bene in testa che qualcuno li ha condotti e li ha guidati e li ha fatti arrivare fino a lì, se lo mettessero bene in testa. È un versetto molto significativo e molto interessante. Ora, le tappe del cammino di Israele nel deserto si trovano in tutto il resto del libro dell'Esodo, quindi dal capitolo 15 al capitolo 40, e sia nel libro dei Numeri che nel libro del Deuteronomio, che rileggono continuamente, attraverso qualche altra piccola accentuazione, l'evento fondamentale del cammino di Israele nel deserto. E tutto quello che succede, perché in quei 40 anni succede di tutto, in positivo e in negativo, come adesso ci accingiamo a vedere con l'aiuto di Dio. E quindi, anzitutto, arrivano le tre prove, quelle di cui vi accennavo. Dobbiamo leggere, ovviamente. Il primo è la manna. Andiamo a vedere Esodo 16. Allora, primo problema. Escono dall'Egitto, tutti contenti. Dio apre il Mar Rosso, passa un pochino di tempo, ecco qua. Levano le tende e arrivano nel deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai. Attenzione, il 15 del secondo mese dopo l'uscita dalla terra d'Egitto, non è passato un granché, eh? Cominciano le prime lamentele, la lamentosi, che è una malattia contagiosa e antica. Chi di voi faccia la lamentosi, ecco, vada da qualche buon padre spirituale a farsela curare. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro: ah, poveri noi, fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto quando ci avevamo la panza piena. Quindi, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, ah, mangiando pane a sazietà, invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora, primo grosso problema, la panza piena. Capito perché Gesù si è fatto 40 giorni di digiuno? E che poi quando il diavolo è andato a dire di che queste pietre diventino pane, nemmeno dopo 40 giorni, che gli ha detto? L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Allora, in questa tentazione, quindi nella panza piena che si aveva nell'Egitto, quindi se tu vai in mano al faraone, t'abboffi proprio, diventi obeso più largo che tutte delle daste cose qui. Nella panza piena sono contenuti tutti i vizi sensuali, quindi non solo la gola, ma anche la lussuria, con cui è la prima tentazione. Però con questo il diavolo ci fa secchi il 90% dei suoi figli. Quindi. Allora il Signore disse a Mosè: ma non è vero che sta con la panza piena. Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la razione di un giorno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non è dacci oggi la nostra Mercedes per 10 anni. Ecco. Perché io lo metto alla prova per vedere se cammina o no secondo la mia legge. C'è solo un giorno in cui si prende razione doppia. E oggi non vogliono fare più manco quello, il giorno prima del sabato, perché il giorno del Signore non si raccoglie il pane, d'accordo? Non si raccoglie, ci si nutre con quello che si è raccolto nei giorni precedenti. Ecco, quindi questa è la prima, però poi, più avanti, lo vedremo poi, qui nel libro dell'Esodo lo sintetizza subito, no? Nel versetto 6, nel versetto 8, Mosè disse: quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di Lui. Nel libro dei Numeri, non mi ricordo se più avanti nella slide c'è, qui li accorpa questi due, perché riceve la manna, dopo un po' la manna non va più bene, dice. Manna tutti i giorni a pranzo e a cena, ci serve un po' di cibo solido, d'accordo? Vogliamo la carne, e Dio dice: volete la carne? Mo ve la mando, ma ve ne mando talmente tanta, fa pure ridere, che vi esce dalle narici del naso, d'accordo? Quindi va bofferete che non la sopporterete più. Vedete, ecco. Quindi questa è la prima tentazione di tutti, d'accordo? State attenti, queste tentazioni sono messe in sequenza. Quindi, quando una persona comincia ad andare vicino al Signore, la prima cosa è: ma quando stavo meglio prima, ecco, che mi potevo divertire un po' di più, se poteva vedere la televisione un po' di più, se poteva andare al cinema un po' di più, se poteva fare un po' di, non lo so, di cosette un po' alternative, un po' divertenti, un po' di più, e invece mo, se deve solo pregare, se deve stare nel deserto, se sta a soffrire. Guardate, queste cose già fanno secche, io vi parlo da prete, hanno già fatto secche più di qualche anima, quindi molti sono fatti fuori. D'altronde Esaù è stato fatto fuori con un piatto di lenticchie, l'abbiamo visto la volta scorsa, no? Quindi non è che ci vuole insomma un granché. Allora, e poi c'è l'acqua, che non è semplicemente l'acqua, è una cosa terribile, è Massa e Meriba. Adesso lo andiamo a vedere al capitolo 17. Allora, quindi la panza l'abbiamo sistemata. Allora, tutta la comunità degli israeliti le vuole tendere al deserto di Sin camminando di tappa in tappa, secondo l'ordine del Signore. E si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè dicendo: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? Mettere alla prova il Signore. Vi ricordate la seconda tentazione di Gesù? Buttati giù dal Tempio, vediamo se vengono gli angeli, come sta scritto nella Bibbia che ti piace tanto, a tirarti su. Cosa risponde Gesù? Non tentare il Signore Dio tuo, non metterlo alla prova, Dio non si tenta. Allora voi dice: ma che c'entra? Adesso si capisce che c'entra. In quel luogo il popolo soffriva la fede, la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un po' che mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui ho percosso il Nilo e va. Starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb, tu batterai sulla roccia, ne uscirà l'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele, chiamò quell'uomo, quel luogo, Massa e Meriba. Massa significa prova, Meriba significa contestazione, quindi ci sono gli indignados, i contestatori, quindi quelli che contestano. No, ma come? Stanno scritti nel libro, stanno già nel libro dell'Esodo, stanno, quindi avete visto. A causa della protesta degli israeliti, attenzione, perché misero alla prova il Signore, attenti, dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Questo è il versetto chiave. Il problema non è l'acqua, il problema è questo qui. Ma sarà vero che il Signore è veramente presente in mezzo a noi oppure no? Se lo è, lo dimostri. Attenzione, terribile questa qui, eh? Allora, sapete che i primi tre vizi capitali sono la superbia, la lussuria e l'avarizia. Con questi tre vengono fatti fuori tutti. La lussuria l'abbiamo già vista simboleggiata nella manna e nelle quaglie. Qui c'è la superbia. Qui la superbia è questa qui, consiste nel pretendere che Dio ti dimostri qualcosa facendo quello che tu ti aspetti da lui. Guardate, questo qua lo facciamo tutti, questo qui, cioè o fai quello che dico io, o ti manifesti come voglio io, o mi dai la grazia che dico io. Ma come, ho tanto pregato? Oggi mi hanno scritto una mail di contatto in inglese, non so da dove scrivono. Maria, non mi tocca pure, risponde in inglese dal sito. La mail era una lamentosi perché c'era una situazione di, se lo dice, sono tanti anni che sto a pregare, il Signore non ascolta, e quindi che vogliamo fare? Non ascolta. Che succede? Dio non esiste? Non esiste. È facile, è sintetica la risposta. Capite? Però questa è superbia. Cioè, noi non dobbiamo mai fare questo qui, non dobbiamo mai fare questo errore. Noi dobbiamo stare umilmente al servizio di Dio, non pretendere che Lui si pieghi alla nostra volontà, perché nel Padre nostro c'è scritto: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, non fai la mia volontà. Oppure pretendere, andare in cerca del sensazionale. Oggi è diffusissimo questo fatto qui, se Dio ti manda un segno e ti manda una grazia, sapete cosa ha detto il diavolo? State attenti bene, eh? State attenti. Quando Dio manda una cosa soprannaturale, la manda Lui liberamente e a chi vuole e senza che nessuno la cerchi e la chieda. Quando una cosa la do io, la do soltanto a chi me la chiede. Il diavolo le dà le cose straordinarie, tante. Se uno vuole diventare un prestigiatore, il mago di quello che vuole, oppure avere tanti beni del mondo, glieli chieda, glieli dà, dopo uno senta il conto. Ma glieli dà. Quindi questo è proprio un atteggiamento demoniaco, questo qui. Guardate, questo è il peccato di Lucifero. Lucifero si è rifiutato di sottomettersi a quello che Dio voleva, e voleva che Dio volesse quello che diceva lui. È assurdo questo qui, ma lo facciamo tutti i sacrosanti. State attenti, qui stanno tantissime, la nostra vita, qui noi abbiamo una conversione continua da fare. A volte ci prende questa tentazione anche con le cose buone, perché ti viene in mente una cosa buona, e chi te l'ha detto che quella è la cosa che Dio vuole da te però? Chi te l'ha detto? Io mi ci sono scontrato con questa cosa qui, anch'io sono caduto su questo punto qui, perché non è detto che una cosa sia buona, o anche che sia la migliore, sia quella che Dio vuole da te. Tu devi fare quello che vuole Lui, e Dio ti fa capire le cose che vuole Lui attraverso dei sistemi molto molto semplici. Uno, guarda quello che sta accadendo nella tua vita. Due, prega. Tre, chiedi sempre consiglio a qualche persona saggia, a qualche uomo di Dio. Non ci sono altri sistemi, e non dobbiamo cercare altri sistemi, non dobbiamo andare a pretendere, a cercare segni, miracoli e cose di questo genere, non servono. Quindi, vedete, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Quindi altro che fede. Questo è un dubbio, questo qui, no? Ecco, Gesù ha vissuto questa cosa con la tentazione di buttarsi di sotto, perché se fosse buttato di sotto, qual era il discorso? Dice, allora, come aveva pensato la redenzione Dio Padre? Dio Padre aveva pensato la redenzione così: tu vai sulla terra e fai una vita in riparazione della superbia umana, nascosta, non soltanto nascondi la tua divinità dietro l'umanità, ma proprio fai l'ultimo di tutti. Gesù si è presentato a predicare che era il Signor Nessuno, non c'aveva nessun titolo, non aveva fatto nessuna scuola rabbinica. C'è, cioè, uno dice, ma avete visto quante volte gli dicono: con quale autorità tu fai queste cose? Era una domanda giusta, d'accordo? Perché in Israele tu non potevi, non è che il primo che si alza va, che vuoi tu? Da quale rabbino hai studiato? Con chi sei stato? Con Hillel? Con Gamaniele? Con Shammai? Con i grandi? Da dove vieni tu? Ma questo faceva il falegname, che vuole? Allora, c'erano 100 miliardi di buone ragioni. Oddio, questo è scaricato. Oh, no, sì. C'erano 100 miliardi di buone ragioni. Accendiamo le luci. Tanto dobbiamo fare soltanto la terza tentazione, che ve la leggo in diretta. Mi l'ho caricato ieri. C'erano 100 miliardi di buone ragioni per contestare questo fatto qui, e invece Dio aveva scelto quello, e Gesù è stato tentato su questo. Non si tenta il Signore Dio tuo, è questa la via, percorriamo questa via, facciamo quello che Dio vuole. Terza ed ultima tentazione, il vitello d'oro. Il vitello d'oro lo conoscete tutto, no? Si trova in Esodo 32. E poi ci fermiamo, il serpente di bronzo lo vedremo la prossima volta. Esodo 32, cosa succede? Allora, finite queste tentazioni, in Esodo 20, ti raccomando, quando facciamo questi incontri, ho detto, non abbiamo tempo di leggere tutto l'Antico Testamento, quindi chi vuole approfondire, in Esodo 20, 19 prima, arrivano al Sinai, grande manifestazione di Dio, suoni, lampi, fulmini e saetti, Mosè sale sul Sinai, e sul Sinai Dio gli dà il Decalogo immortale, scritto dal suo dito. Dopo che ha dato il Decalogo, Mosè rimane parecchio su, a colloqui intimi, perché dopo avergli dato il Decalogo, Dio gli dà tutta quanta una serie di istruzioni, sia per quanto riguarda l'applicazione spicciola del decalogo, il cosiddetto codice dell'alleanza, specialmente per quanto riguarda i precetti del prossimo, sia per quanto riguarda le norme del culto. Gli dice come deve essere costruito. Non c'era ancora un tempio, no? C'avevano un luogo dedicato a Dio, quindi una tenda, una dimora itinerante che si spostava con il popolo di Israele, che però doveva essere fatto in un certo modo. E da tutta quanto una serie di prescrizioni molto meticolose, dove si mette l'altare, dove si mette il velo, cosa deve fare un sacerdote quando entra, quando esce, ci sono una serie di capitoli difficilotti anche un pochino da leggere, che parlano di queste cose. Nel frattempo Mosè si fa un bel digiuno di 40 giorni e di 40 notti prima di ricevere tutte queste cose, di parlare a faccia con Dio, e quindi si arriva lentamente fino al termine di tutti quanti questi discorsi. D'accordo. Che succede? Il popolo si era stufato. Dice, questo sta ancora lassù. Dice, ma che fa? Ecco, cito. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli disse, fa per noi un Dio che cammina alla nostra destra, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Aronne che doveva essere caduto, anche Aronne, rispose loro, via via, toglietevi tutti i pendenti che hanno gli orecchi, che hanno gli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, e portateli a me. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli ricevette dalle loro mani e li fece fondere una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Sapete tutto quanto il seguito. Il Signore disse a Mosè, va sbrigati a scendere, perché il tuo popolo che è fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato, si sono fatti un vitello di metallo fuso. Poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Qui c'è il peccato di idolatria. Peccato su cui bisogna riflettere, ci abbiamo ancora 2-3 minuti, un po', per il modo con cui viene compiuto. Perché? Allora, numero uno, questa tentazione, abbiamo detto che i primi tre vizi sono la lussuria e la superbia, quindi qui ci deve entrare per forza qualcosa, l'avarizia, che è il Dio soldo, adorato da molti. La tentazione è duplice, anche perché è fatto con l'oro, quindi non è un vitello, è un vitello d'oro, insomma. È duplice. Numero uno, il voler vedere. Dietro i soldi, cioè, non soltanto il voler vedere, il poter avere qualcosa, come dire, di concreto a cui... Voi sapete che i soldi sono una cosa terribile psicologicamente, perché i soldi ci fanno sentire i padri eterni, cioè sono una sicurezza. Se uno c'è soldi, se mi viene un colpo mi va col medico, se voglio fare questo lo faccio, se voglio comprarmi quest'altro lo faccio. Quindi l'avarizia è un difetto così grave, se uno non è distaccato dai soldi, quindi se uno non sa usare i soldi semplicemente per il bene, perché? Perché mi priva completamente del senso del bisogno di Dio. E quindi mi porta a privarlo dell'adorazione che gli è dovuta. Non so se lo capite in maniera... Per questo che Gesù dice, difficile, che, non dice che la ricchezza è una cosa cattiva in se stesso, ma per gli effetti che produce in chi non è capace a vivere in maniera distaccata, rende enormemente difficile entrare nel regno di Dio. Ed è per questo che per esempio uno come San Francesco era così rigido sulla povertà, rigidissimo. Non neanche li toccava con le mani i soldi, perché capiva che dietro questo c'è la rovina del mondo. Allora, dietro queste tre tentazioni, concludendo, ci sono un po' simboleggiati i tre nemici spirituali della nostra anima, di cui i vostri padri spirituali vi renderanno sempre dotti. Sono tre. Il primo, in ordine, quello con cui vengono fatti secchi quasi tutti, che è la carne, quindi i sensi con le loro disordinate passioni. Il secondo è il mondo con le sue ricchezze, le sue mode, le sue massime e le sue pompe, che i santi si mettono regolarmente sotto i piedi, che è simboleggiato dal vitello d'oro. Il terzo è il demonio, il demonio che è astuto con la sua superbia. Quindi nello spingerci a dubitare della presenza di Dio e addirittura nel tentarci di persuadere Dio a fare quello che vogliamo noi, sotto condizione che se non facciamo quello che vogliamo noi, qui non si muove più un passo, l'esodo è finito e si ritorna in Egitto. Ok, penso che possiamo, adesso suona la voce di Dio, fermarci per oggi qui. Con la prossima volta riprenderemo con un altro episodio molto significativo, andremo a leggere nel libro dei numeri, che sono i serpentelli che mozzicano gli israeliti a causa delle mormorazioni. Quindi attenzione che le linguacce sono stigmatizzate fin dai tempi dell'Antico Testamento e che un bel tacer non fu mai scritto, o come dicono gli inglesi, la parola è d'argento ma il silenzio è d'oro. Ecco. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.